gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Benvenuti a tutti su Radio Miami International, state ascoltando I Love Italy, alla conduzione dallo studio dell'Oltrepò Pavese, il vostro Andy Mangiarotti. Rimarremo insieme per circa 15 minuti, dove potrete ascoltare questa trasmissione parlata in lingua italiana, 15 minuti della nostra lingua, un po' in tutto il mondo grazie alle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. In apertura vediamo gli orari e i giorni di messa in onda di I Love Italy. La nostra trasmissione è gentilmente ospitata su Radio Miami il giovedì alle ore 20:30 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Siamo in onda anche il mercoledì alle 01:15 UTC sulle frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi siamo in onda anche il sabato alle 20:45 UTC sulla frequenza dei 7.730 kHz. Sempre al sabato, alla medesima ora, 20:45 UTC, ma su una frequenza differente, siamo in onda sulla poderosa e mitica frequenza dei 15.770 kHz. Vi ricordiamo che i programmi, gli orari di messa in onda e i giorni possono variare, quindi il mio consiglio è quello di visitare comunque il sito di Radio Miami wrmi.net, perché questi orari e questi giorni potrebbero subire delle variazioni. Ora partiamo con I Love Italy. Andy Mangiarotti vi dà il benvenuto qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Questa è I Love Italy. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Vi preannuncio che sarà una trasmissione incentrata principalmente sui saluti, perché abbiamo ricevuto molte mail, molti rapporti di ricezione, alcuni anche dei semplici saluti. In apertura doveroso salutare una persona, il mitico Enzo, che conduce un programma radiofonico Good Morning Planet, una trasmissione che è in onda su indieliferadio.it. L'amico Enzo è in onda ogni mattina alle 9:30 con il suo programma Good Morning Planet dalle mitiche frequenze di indieliferadio.it, che trasmette appunto sul web. Enzo è stato gentilissimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 30 minuti dove abbiamo parlato un po' di radio, soprattutto in occasione del World Radio Day. Abbiamo parlato di Radio Miami, delle onde corte, delle trasmissioni radiofoniche in Italia, di tante cose carine. In 30 minuti abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi in apertura doveroso salutare Enzo, appunto, di Good Morning Planet. Ora partiamo con i rapporti di ricezione. Mi scrive Harold. Ciao Andrea, sono Harold Waring, da East Hampton, Massachusetts, Stati Uniti. Harold mi scrive: è stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sulla frequenza dei 15.770 kHz dalle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Anzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo, contraccambio Harold, anche a te e a famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto ad oggi, il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo. Spero di ricevere la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold, spero che avrai ricevuto la cartolina QSL. Ora leggiamo un altro bel rapporto di ricezione da Valladolid, Spagna. Gentili signori, vi contatto per inviarvi un rapporto di ricezione di appunto I Love Italy, ma prima vorrei spiegare qualcosa su di me. Mi chiamo Juan Carlos Pérez Montero, Valladolid, Spagna. Ho l'hobby del radioascolto dal 1986, quando ho iniziato con una radio cassette Grundig che trasmetteva tutte le bande in onde corte. A quel tempo scoprii sulle bande ad onde corte stazioni che trasmettevano in diverse lingue come lo spagnolo e dove potevo ascoltare anche Radio Olanda e altre stazioni internazionali con programmi specifici che trattavano il tema del radioascolto internazionale. Ho trascorso molti anni a inviare rapporti di ricezione in ogni parte del mondo con diversi ricevitori che ho acquistato. Avevo tra le mani centinaia di QSL, lettere, souvenir, gadget di alcune radio, ma a causa di diverse circostanze della mia vita e di cambi di indirizzo, tutte queste meravigliose cose sono andate perdute. Ah, che peccato, veramente. E qualcuno purtroppo le ha gettate via. Dopodiché ho deciso di vendere le mie radio e i miei trasmettitori. Da allora ho continuato a coltivare l'hobby dell'ascolto soprattutto in modulazione di frequenza in Spagna, collezionando tutti i tipi di merchandising delle stazioni radiofoniche spagnole, dagli adesivi da appendere appunto nelle macchine alle altre cose che riguardano le radio. Mi piace anche collezionare, pensate un po', a registrazioni di programmi soprattutto di radio spagnole, tra cui anche jingle, e ho tantissimi jingle soprattutto di radio spagnole. Gestisco anche un gruppo Facebook sulla radio in Spagna con circa 2400 amici, dove ci teniamo aggiornati sulle ultime novità in materia di radio in FM. Questo gruppo si chiama La Radio Is Mucho Más. Lo potete vedere su Facebook, sul gruppo La Radio Is Mucho Más. Nel marzo del 2020, quando ho incontrato un vecchio amico radioascoltatore e radioamatore, ho iniziato ancora a fare del radioascolto. Nel mio ritorno ad ascoltare le radio internazionali, questo è capitato nell'aprile 2022, sto utilizzando mezzi moderni, soprattutto SDR e dei software particolari che permettono di fare del radioascolto internazionale attraverso il computer, ma purtroppo la mia casa, essendo vicina ad un ospedale, ho delle continue interferenze e allora mi appoggio a siti web come il famosissimo Kiwi SDR olandese o altri tipi di trasmettitori online da tutto il mondo. Questo mi consente appunto di ascoltare le radio che preferisco e fare del radioascolto internazionale anche attraverso il web. Per poter ricominciare a recuperare tutte le vecchie cartoline che purtroppo sono andate perdute, continuo con questo mio hobby. Spero tanto di ricevere tue notizie e materiale di I Love Italy. Un saluto dal tuo radioascoltatore da Valladolid in Spagna, quindi ringraziamo questo caro amico Juan Carlos Pérez Montero da Valladolid, Spagna. Noi manderemo sicuramente la cartolina QSL di I Love Italy. Ora andiamo avanti da l'amico che ci ascolta dalla Cina. Cara Radio Miami, I love Italy, sono Ding Lung, un ascoltatore dalla Cina, e vi prego di scusarmi per non essere stato regolarmente in contatto con voi, perché nel gennaio del 2024 sono stato impegnato. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL, ci sono anche souvenir del programma e così via. Questo è il mio rapporto di ricezione. Orario di ricevimento 7 febbraio 2023 alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Apparecchiatura ricevente Radio Texun PL310ET con antenne esterne. Luogo di ricezione Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore di sottofondo per un simpo 43444. Poi aggiunge l'amico cinese Ding Lun, tra pochi giorni sarà il capodanno cinese del drago nel calendario lunare cinese. Nella cultura tradizionale cinese il drago è una bestia mitica, leggendaria, considerato simbolo di fortuna. L'anno del drago è spesso culturalmente intriso di fortuna, prosperità e ci aspetta che porti fortuna e prosperità al paese, alla società, agli individui. Inoltre l'anno del drago è spesso visto come un simbolo di gloria nazionale, un anno in cui le persone si concentrano maggiormente sulla prosperità e sullo sviluppo del proprio paese, lavorando insieme per il suo onore. E salutiamo anche Nick Iozzo dalla città di Oakville, provincia dell'Ontario, Canada. Data di ricezione 10 febbraio 2024, ora di ricezione 20:55 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità del segnale eccellente, commenti sulla nostra programmazione, la prima volta che ascolto il programma, mi è piaciuto molto. E concludiamo con l'ultimo rapporto di ricezione. Salve, è un paio di settimane che ascolto questa trasmissione insolita sulle onde corte, dopo che mi è arrivata la notizia della sua intervista su Radio Voce della Speranza Firenze, appunto AVR. Buon proseguimento, Renzo dalla provincia di Firenze. Noi siamo arrivati in fondo anche per questa puntata di I Love Italy. In 15 minuti ho cercato di salutare un po' tutte le persone che ci hanno scritto. Riceverete la vostra copia cartacea, la vostra cartolina QSL dal sottoscritto, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio come sempre il nostro caro Jeff White per lo spazio prezioso su Radio Miami. Ci sentiamo quindi alla prossima. Ora i programmi continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andy Mangiarotti. Ciao, buon proseguimento d'ascolto di Radio Miami. Ciao ciao, grazie, ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com